A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Da un piccolo paese della Sicilia a una grande città del nord, presi e catapultati in un nuovo mondo, spesso senza neanche il tempo di dire ciao. Lasciano le scuole, gli amici e molti sono costretti ad abbandonare pure il loro nome per ricominciare tutto da capo, insieme a chi ha deciso di tagliare i ponti con la mafia e denunciare ciò a cui ha assistito. Sono i figli dei testimoni di giustizia, travolti dalle scelte coraggiose di quel padre o quella madre che si schiera dalla parte dello Stato. È altissimo il prezzo che anche loro, i bambini, pagano in queste nuove vite senza parenti né amici, senza poter giocare liberamente e senza lavoro per i genitori. Ma con una scorta invece che ti segue sempre come un'ombra. La cronaca però di molte storie di testimoni di giustizia dimostra anche come nei casi in cui la madre non porti subito con sé i figli nella nuova vita tentenna e cede più facilmente al ricatto dei sentimenti mosso in genere dalla famiglia. Così è stato in Calabria per Maria Concetta Cacciola, uscita dal sistema di protezione per tornare dai figli e poi morta suicida. Così era stato anche per Giuseppina Pesce, che per i figli ha cambiato vita e che per loro invece sta andando avanti nella sua battaglia. E così è avvenuto pure per Piera Aiello. Presa in braccio la sua bambina, ha abbandonato il suo mondo il giorno in cui ha visto il marito cadere sotto il fuoco dei sicari. Ha cominciato allora, questa giovane donna siciliana, il cammino verso la giustizia, denunciando gli affari mafiosi della famiglia del congiunto Nicola Atria, anche grazie all'incontro decisivo con un magistrato come Paolo Borsellino. La prima volta, ci racconta ora Piera, lei lo chiamò onorevole e lo scambiò per un mafioso. La maledetta mafia, titolo del libro scritto ora da Piera Aiello con Umberto Lucentini, ha stravolto la vita a lei come a tutte le altre donne che sanno ribellarsi. La donna è nel ruolo delle famiglie mafiose e riveste un ruolo molto importante. Quando l'uomo mafioso sta in casa, anche se fuori comanda mezzo mondo, quando arriva in casa l'attenzione è puntata di più sulla donna che prende delle decisioni importanti. Questo lei lo ha vissuto e verificato direttamente sulla sua stessa vita, una vita da testimone di giustizia, una vita che, come scrive lei adesso, è quella di una donna con due nomi, due cognomi e con due vite parallele, la vita di oggi e la vita di un tempo. Quale bivio lei si è vista davanti nel momento in cui ha assistito con i suoi stessi occhi al delitto di suo marito e ha dovuto in pratica immediatamente scegliere se stare dalla parte di chi, come sua suocera le diceva, con gli sbirri non si parla, oppure decidere di voler collaborare appunto con la giustizia? Praticamente io già da prima mi ribellavo a quel sistema mafioso, non per niente mio marito, quando io trovavo la droga o quant'altro, venivo picchiata regolarmente. Poi quando è stato ucciso davanti ai miei occhi, lì praticamente ho capito che non era giusto, che anche se lui era un mafioso, ho avuto la grande fortuna di incontrare come prima persona un sostituto procuratore di Sciacca, la dottoressa Morena Plazzi, arrivata da neanche un mese in quella procura, che a sua volta mi fece conoscere Paolo Borsellino, e da lì inizio senza neanche accorgermene a testimoniare. E dopo che inizio a testimoniare capisco di essere diventato un testimone di giustizia. Quindi un bivio che in qualche modo lei ha affrontato senza avere alcun tipo di esitazione su quale strada prendere, e questo nonostante appunto dalla famiglia del marito le si dicesse poco dopo il delitto di Nicola Atria, appunto suo marito, sua suocera le dicesse: con gli sbirri non si parla. Come è riuscita anche a mettere tanti chilometri e tante scelte così diverse tra sé e la vita della famiglia di suo marito? È stata una scelta proprio sentita dal cuore, perché la mia famiglia, non essendo una famiglia mafiosa, mi aveva insegnato tutt'altra storia. Prima pensavo di testimoniare e tornarmene a casa, poi secondariamente dal giudice Paolo Borsellino mi è stato spiegato che così non sarebbe stato. La sua vita è anche una vita di incontri, una vita che si incrocia con quella di altre persone a lei molto care, a cominciare dalla sorella di suo marito, Rita Atria, la cui scelta si simile alla sua e in qualche modo determinata anche dalla sua stessa scelta di vita, e ha avuto una conclusione tragica e drammatica, e poi, come ha già detto, l'incontro con Paolo Borsellino. Io vorrei adesso partire da qui. Qual è la prima immagine che le ricorda di Paolo Borsellino a cui lei ha affidato i suoi racconti da testimone? Subito, la prima volta che l'ho incontrato, sentendolo parlare con quell'accento marcato palermitano, sinceramente non ho avuto subito una bella impressione. Infatti, non sapendo come chiamarlo, lo chiamai onorevole. Lui mi disse: con tutto rispetto, parlando per la categoria, me la stengo bene dall'essere onorevole, sono un semplice procuratore della Repubblica. Io faccio: vabbè, ma con questo accento marcato palermitano lei mi sembra un mafioso. Da lì la rottura del ghiaccio e la risata, e mi spiegò in parole povere il suo ruolo come rappresentante dello Stato, perché io, anche se lui mi aveva detto che era un procuratore, in tutta sincerità non avevo neanche capito il significato del suo ruolo. E da lì poi le nostre chiacchierate che portavano ai verbali che ho scritto, alla sua grande umanità, non solo come giudice ma proprio come uomo, come persona molto dolce, come spalla amica dove piangere, perché sai, inizialmente avevo tanta paura, momenti di disperazione, alla fine io avevo un padre, un amico, un fratello maggiore, una persona che veramente per me è stata sempre, e anche se adesso non c'è più, è un punto di riferimento. La presenza di un magistrato che diventi un punto di riferimento per chi decide di testimoniare, quindi di cambiare, stravolgere la propria vita, è un elemento molto forte. La storia difficile dei testimoni di giustizia spesso ha un esito positivo quando si crea un rapporto di fiducia così stretto tra il testimone, che appunto cambia identità, cambia città dove vive, cambia le proprie abitudini, e quel magistrato di cui si fida. Questo è un elemento di cui si torna spesso a parlare anche quando storie di testimoni di giustizia hanno esiti drammatici, come è stato per una donna calabrese, Maria Concetta Cacciola, suicidatasi dopo essere rientrata in famiglia. Spesso viene usata l'arma del ricatto degli affetti più stretti, come quello dei figli. Se invece non avesse avuto con sé sua figlia, sarebbe stato più complicato affrontare questa scelta? Qui decide di fare il passo che ho fatto io. Penso che debba mettere sulla bilancia tutti i pro e i contro, e la prima cosa assolutamente che una deve fare è o decidere di rimanere in loco ed essere protetta dalle forze dell'ordine, o staccare completamente dalla spina, dagli affetti, da tutto quello che prima si è avuto, e andare avanti. Sono scelte molte volte drammatiche che ti portano quasi alla pazzia, però io ho avuto una grande fortuna che, anche se avevo i miei genitori lontani, sono stati sempre vicino a me. Poi avevo mia figlia che non ho lasciato mai neanche per un giorno, dove andavo io andava lei, è stata veramente la mia forza, il mio punto fermo, dove io potevo essere sicura che non potesse avere ritorsioni. Comunque, anche se i miei genitori sono rimasti in Sicilia, io forse sarò una delle poche fortunate, non abbiamo mai avuto nessun tipo di ritorsione o minacce o quant'altro. Lei racconta, a proposito di sua figlia, anche delle scene in cui la bambina giocava nel palazzo di giustizia mentre lei appunto riempiva pagine di verbali. Questa è un'immagine che mi fa venire in mente un'altra, quella messa nera su un bianco da un'altra donna che ha deciso di collaborare con la giustizia, Giuseppina Pesce, che ha scritto di volerlo fare per i suoi figli. Lei ha anche conosciuto tante altre persone che si trovano nella sua stessa condizione di testimone di giustizia. In quante condividevate questa volontà di voler far cambiare anche ai vostri figli il contesto in cui siete nate e vissute? Io ci tenevo tantissimo ad allontanare mia figlia da quel contesto. Non avrei mai accettato, perché mia figlia, rimanendo a Partanna, comunque sarebbe stata la nipote di Don Vito Atria, la figlia di Nicolò Atria, e non, questa cosa non mi andava proprio giù. Poi non avevo la paura che anche lei potesse essere costretta a sposare una persona che come me non volevo assolutamente sposare. Allora proprio è stata una scelta radicale appunto per proteggerla, e anche altri testimoni che io, come ha detto lei, conosco, hanno fatto questa scelta. Però voglio ribadire una cosa, che è una scelta veramente molto difficile, perché molte volte si pensa al testimone in sé e non si pensa ai figli dei testimoni, che molte volte ne subiscono dei traumi che molte volte sono irreversibili, traumi proprio psicologici, perché vivere con una scorta, uscire con sempre accompagnata, non avere libertà, o addirittura, come è successo a mia figlia, avere un cambio di generalità, questa bambina che prima si chiamava in un modo e poi in un altro, cioè sono delle situazioni pesanti e che nel tempo purtroppo hanno delle ripercussioni non indifferenti. L'incontro con Paolo Borsellino determinò la vita di Piera Aiello e ancor di più quella della cognata Rita Atria, che dopo la bomba di Via D'Amelio si tolse la vita. E da qui ripartiamo nella seconda parte di A ciascuno il suo, da quelle ultime parole che il magistrato le confidò nei suoi ultimi 57 giorni di vita e che ora Piera ritrova nelle carte dell'inchiesta sulla trattativa Stato-mafia. A ciascuno il suo. Quell'accento palermitano per lei significava soprattutto mafia. E quando Piera Aiello lo obiettò a Paolo Borsellino, il magistrato scoppiò a ridere. Cominciò allora, questa giovane donna di Partanna, il suo percorso da testimone di giustizia contro la maledetta mafia, titolo del suo libro. Una battaglia iniziata anni fa, come vi abbiamo altre volte raccontato, contro tutto l'ambiente mafioso che ruotava intorno alla famiglia del marito, Nicola Atria, e proseguita ancora oggi per far approvare la legge che permetta ai testimoni di giustizia di poter cercare un lavoro. Una battaglia determinata per Piera Aiello dall'incontro cruciale con Paolo Borsellino, che nei suoi ultimi 57 giorni di vita le confidò pure un pensiero che lei ora ritrova nelle ricostruzioni dell'inchiesta sulla trattativa Stato-mafia. Io l'ho visto subito dopo la morte di Falcone e, come dice lei, era una persona angosciata, ma perché non perché avesse solo paura di essere ucciso dalla mafia. Il problema di questi grandi giudici che adesso non ci sono più è perché sono stati abbandonati dallo Stato, come succede con altri giudici in questo momento. Lei che cosa ricorda di questo ultimo incontro con Borsellino? Le disse qualcosa? Che cosa notò oltre a questo senso profondo di angoscia? Ho avuto poco da poter parlare con lui, perché non era una persona che in quel periodo si sbottonava tanto, però lui mi disse: non è solo la mafia. Non è solo la mafia. Infatti ora, come si suol fare col senno di poi, tu pensi e vedi che realmente è così, perché troppe cose sono successe, e anche dopo la sua morte, cioè questi omicidi eccellenti, io penso che si potevano pure evitare. Ecco, le inchieste stanno facendo venire fuori infatti tutto quello che poi l'indagine sulla trattativa Stato-mafia sta mostrando, ma hanno mostrato e hanno fatto venire fuori anche dettagli, chiamiamoli così, come il pianto di Paolo Borsellino davanti a due colleghi proprio per le scoperte che stava facendo in quel momento sulla strage di Capaci. Lei ha ripensato a frasi di Borsellino ora che stanno venendo fuori numerosi dettagli sull'inchiesta, sulla trattativa? Bastava che ci guardavamo in faccia, perché ormai il legame che avevamo proprio fraterno era tanto, e sinceramente vedere un uomo combattivo diventare una persona come se fosse un'ombra era una cosa che ti lasciava veramente con l'amaro in bocca, e dicevo sempre: non è giusto. Non è giusto che ciò accada, e poi alla fine è accaduto. Lei ha avuto qualche contatto anche con la famiglia di Borsellino dopo oppure no? Sì, io li ho conosciuti e sono anche loro delle persone meravigliose, perché io penso sempre che vicino a un grande uomo c'è sempre una grande donna, come lo è stato Agnese Borsellino, ma anche dopo la morte è sempre stata una grande donna, eppure i figli sono delle persone veramente meravigliose. Ecco Piera, la sua storia si incrocia con il destino di Paolo Borsellino, ma è strettamente legata alla vicenda drammatica di sua cognata, di Rita Atria, che come lei seguì le sue orme decidendo di collaborare e che però non seppe sostenere il peso anche psicologico della strage di Via D'Amelio e della morte di Borsellino. Quando Rita cominciò a collaborare, in qualche modo sentì il peso di questa scelta che stava facendo? Inizialmente cercai di dissuaderla, calcoli che quando stavo in programma non ero con il servizio centrale di protezione che c'è adesso. Io iniziai che c'era l'alto commissariato, dove non si capiva niente, chi era testimone, chi era collaboratore, nonché pentito, cioè era un grande calderone. E perciò quando ho visto che c'era tutta sta grande confusione, io, anche se ero piccola di età, avevo 24 anni, per me io pensavo che la mia vita fosse finita, però lei ne aveva 17, aveva tutta una vita avanti, e gli dicevo basto io. Però lei inizialmente nutriva una sorta di voglia di vendetta, perché da donna non si poteva vendicare come aveva fatto il fratello. Invece, una vendetta per l'uccisione di suo fratello. Del padre e del fratello. Invece poi quando ha conosciuto questi grandi giudici e magistrati che ci circondavano, ha capito che fuori da quel contesto dove lei era vissuta c'era un mondo migliore, e lì il suo cambiamento e la sua voglia di giustizia. Perché secondo lei decise poi di togliersi la vita? Non seppe mantenere il peso della morte di Paolo Borsellino? Io penso che abbia maturato questa cosa non all'istante, ma da subito dopo la morte di Paolo Borsellino. Lei definiva suo padre la sua stella, suo fratello la sua stella, e in mezzo a queste stelle aveva messo lo zio Paolo, perché lo chiamava zio Paolo. Quando quest'altra stella è venuta a mancargli, lei non aveva, anche se c'ero io, ma non aveva più punti di riferimento. Lei non ha avuto la grande fortuna che avevo io di avere comunque una famiglia. Si sentiva comunque da sola, aveva perso, diciamo, un padre. È stata appunto vittima di tutto quello che più grande di lei stava succedendo intorno a sé, ma è stata anche doppiamente vittima della sua stessa famiglia, sia in vita che da morta. Lo ricordiamo tutti, la storia di Rita Atria ha anche quell'epilogo drammatico della mamma che si scaglia contro la lapide della figlia, che aveva avuto l'ardire di parlare con i magistrati e andare a raccontare anche quanto avveniva all'interno della sua stessa famiglia. All'interno delle dinamiche, diciamo, di un posto come era la Partanna degli anni 90, come si giudica il gesto di una madre che si scaglia e non riconosce più la figlia anche nel momento in cui si è tolta la vita? Lì ci sono due situazioni. Una era quella che la figlia si era ribellata al sistema mafioso. La seconda è stata quella che io avevo fatto fare sulla tomba una lapide a forma di libro, dove avevo messo la foto di Rita con la data di nascita e la data di morte, e con sottoscritto "La verità vive". A modo mio ho interpretato che lei voleva far morire il tutto insieme alla figlia, non voleva che questa verità tornasse ancora e andasse avanti. Una verità che invece, appunto, avevate messo nero su bianco nei verbali affidati ai magistrati e che avete portato avanti con le vostre scelte coraggiose e con la vostra vita, Rita poi togliendosela, lei andando avanti, cambiando identità ed affrontando la vita difficile di un testimone di giustizia. Lei, appunto, ha già raccontato un elemento importante delle difficoltà di dover cambiare identità. Quali sono le principali difficoltà di chi come lei si è trovato a fare la scelta di fare il testimone? Che cos'è che invece potrebbe incentivare altre persone a fare questa scelta così coraggiosa? Cosa manca? Stiamo combattendo una battaglia, una guerra, perché abbiamo presentato delle proposte legge, io e alcuni testimoni di giustizia. Siamo andati addirittura in Commissione parlamentare europea, perché noi abbiamo bisogno di leggi che ci tutelino di più. Abbiamo chiesto fondamentalmente il reinserimento sociale e lavorativo che attualmente non c'è. Molte persone stanno per anni dentro un programma a rinsecchirsi e quando si decidono di uscire fuori da quel programma, praticamente con una manciata di soldi pensano di risolvere il problema, ma così non è. Voi siete nella condizione di non poter di fatto lavorare. Praticamente noi ci riaffacciamo a nuova vita disarmati. Proprio disarmati. Noi infatti chiediamo proprio questo, il reinserimento socio-lavorativo. Ci sono persone poco attente, perché dire che lo Stato non c'è è troppo comodo. Invece io dico che ci sono persone dello Stato disattente e noi per anni stiamo lottando su questa cosa. In sostanza il testimone di giustizia è costretto a vivere esclusivamente con quel stipendio che gli viene dato dal Viminale, cioè non è in grado di trovare una propria occupazione. Può sembrare anche tanto, ma la media di una famiglia di 3 persone, lo Stato gli dà 1.300 euro. Ora, se tu sei in un paesino e magari hai casa tua, riesci, ma se tu vivi in una grande città, perché comunque siamo portati sempre in grandi città per mimetizzarci meglio, con 1.300 euro non fai niente, specialmente se hai figli che vanno a scuola. Perché non potete lavorare? Il cambio di identità non è concesso a tutti, perché lì praticamente si fa una richiesta e poi il ministro del diverse giustizie e altri ministri decidono se è il caso di cambiarti la generalità o meno. Se cambi la generalità forse riesci a trovarti un lavoro, alla meno peggio se hai la possibilità che un titolo di studio o hai una tua forza fisica per farlo, ma chi non cambia le generalità, il reinserirsi in un posto di lavoro diventa rischioso e pericoloso, perciò rimani il più tempo possibile in un programma che alla fine è sterile perché non ti dà un futuro. E ti ritrovi anziano senza contributi versati e presumibilmente senza neanche una pensione. E tutto questo chiaramente spaventa, per cui allontana le persone che potrebbero testimoniare da fare questa scelta. Penso proprio di sì, l'unica cosa che dico io è che comunque il testimoniare è un dovere di ogni cittadino, che onestamente questa cosa si fa e basta, a prescindere da quello che si va incontro. Le difficoltà ci sono, ce ne sono tantissime, cercheremo di risolverle e io invito le persone oneste a non girarsi dall'altra parte e dire che questa storia appartiene a tutti. A ciascuno il suo, termina qui. Per riascoltare le puntate il sito è radio24.it nella sezione podcast. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce e sul blog Storiacce. Ciao a tutti da Raffaella Calandra.